Dunque, pagina 59, Daniel Odier parla del suo rapporto con la maestra Devi, che è stata proprio la sua insegnante, insomma. E comincia così: spesso riusciamo, ed io stesso l'ho fatto con una certa maestria, a seguire una via spirituale senza che ciò trasformi la nostra realtà quotidiana. Ci interessiamo, ascoltiamo gli insegnamenti, aderiamo, diveniamo buddisti, tantrica, Vedanta, Sufi. Questo semplice cambiamento di ci culla in uno stato piacevole, ma non sempre ci riporta al quotidiano. Vorrei fare subito una parentesi. La stessa cosa vale per la psicoterapia. Tu vai in psicoterapia, hai degli insight straordinari che dovrebbero cambiare tutta la tua vita, torni a casa, dura 1 o 2 giorni, poi sei come prima. Allora dici, ah, ma allora quegli insight erano sbagliati. E quindi ritorni a fare sempre le stesse cose. Chiudo la parentesi. Continuo a dire. È così che possiamo seguire una via spirituale, scoprirne gli arcani, passare istanti belli e profondi quando siamo con altri che condividono il nostro processo o quando siamo con il maestro. Facciamo letture appassionanti, scopriamo una nuova filosofia, ogni giorno consacriamo un momento alla meditazione e altre pratiche. Un piccolo altare con una statuetta di Shiva, di Buddha e una foto del nostro maestro ci ricordano questa nuova via. Ogni giorno offriamo fiori e incensi, senza che per questo avvenga alcuna trasformazione nella nostra vita ordinaria. E qui ricordo che anche la Angela Volpini dice che l'evidenza di un lavoro spirituale c'è nelle relazioni umane, come cambiano le nostre relazioni, cioè nel quotidiano. Continuo a dire, questa dualità esiste tra la pratica meditativa, la pratica spirituale e la vita quotidiana, perché stiamo inseguendo un fantasma spirituale. Per quanto raffinato possa essere, e non ci stiamo implicando totalmente nella ricerca. Quindi stiamo nell'immagine, non nella realtà. Poi ci sorprendiamo che le nostre reazioni siano mutate, che i nostri gesti non portino tracce della nostra meditazione, che i voti e i precetti che osserviamo siano semplicemente dei prospetti che non hanno la possibilità di trasformarci. In verità, non vogliamo comunicare profondamente con la realtà di ciò che siamo. Preferiamo sviluppare un'isola di devozione su cui poterci rifugiare di tanto in tanto. Apro una parentesi, finite volte ho visto dei praticanti che nella loro vita quotidiana sono esattamente come tutti gli altri. Chiudo la parentesi. I maestri Kashmiri hanno compreso molto bene questo processo di assenza alla realtà, ripeto, assenza alla realtà nella ricerca spirituale. Nel corso di qualche millennio, questi maestri hanno esplorato a fondo e hanno inventato una via semplice e sottile nella quale l'essere umano sceglie come terreno di pratica l'insieme della realtà quotidiana all'interno della società, senza rinunciare né separarsi da nulla, semplicemente lasciando emergere la coscienza in ogni atto della vita. Ripeto, far emergere la coscienza in ogni atto della vita. Quando non c'è la coscienza, noi siamo nell'ipnosi. Tutti i giorni, con una luce maliziosa nello sguardo, la mia maestra Devi mi domandava cosa la pratica avesse cambiato nel mio quotidiano. Così facendo, mi chiedeva di rendermi conto se dall'istante in cui aprivo gli occhi fino all'istante in cui li richiudevo fossi consapevole del mio modo di camminare, di respirare, di essere presente ad ogni istante della vita, all'armonia di ogni contatto, di ogni gesto, di ogni sensazione, di ogni emozione, di ogni pensiero, perché, secondo lei, era sull'intero campo della realtà che dovevo investire lasciandolo sommergere dalla coscienza. Dall'inizio del mio soggiorno presso di lei, Devi mi faceva notare ogni istante di assenza dal mondo, ogni movimento brutale, ogni automatismo. Guarda, assenza dal mondo, mancanza di coscienza, qui viene collegato alla brutalità e all'automatismo. Meccanica. Il suo insegnamento era totalmente centrato sulla presenza rilassata, ma continua al mondo. Quando mi parlava di filosofia, riportava sempre l'idea alla realtà della vita e alla pratica costante. Per Devi, un essere che aspira alla spiritualità è un essere che senza sosta lascia circolare liberamente tutti i movimenti che lo collegano al mondo, sia sul piano interiore delle sensazioni, delle emozioni, e dei pensieri che sul piano dell'azione. Ripeto, lascia circolare liberamente tutti i movimenti che lo collegano al mondo, sensazioni, emozioni, pensieri e azioni. Diceva che un solo istante di presenza totale valeva la lettura di tutti i trattati, di tutti i poeti, di tutti i filosofi. Devi era una grande risvegliata totalmente spontanea. All'inizio la sua insistenza mi era sgradevole perché mi attaccava nel mio sogno spirituale. Quindi qui tacca il narcisismo, no? Anche nella ricerca spirituale c'è una radice narcisista di successo, di grandiosità, di ottenere chissà che cosa. Adesso poi sarà un po' più chiaro dopo. Mi sentivo come una specie di paralitico dai gesti caotici, i cui automatismi erano così profondi che ne emergevo solo raramente. Parentesi, ecco perché è così importante il lavoro sul corpo. Come presenza possiamo avere la realtà se non siamo presenti ai nostri gesti, ai nostri movimenti, alle nostre sensazioni? Chiudo la parentesi. Dato che non avevo la possibilità di sottrarmi fisicamente alla presenza di Devi, sia di giorno che di notte, mi era impossibile sfuggire a questa presa di coscienza continua. Tra l'altro è usanza di molti maestri tantrici vivere presso con gli allievi, magari accogliendo in casa loro, stando tutto il tempo insieme, perché l'insegnamento è la vita quotidiana. Riprendo. Avrei preferito dover praticare un rituale, recitare mantra, concentrarmi su diagrammi, fare prostrazioni, meditare per delle ore come avevo fatto praticando Vipassana in Thailandia. Ma Devi non era lì per darmi ciò che mi aspettavo, era lì per aiutarmi a liberarmi nella banalità del quotidiano. Ripeto, liberazione nella banalità del quotidiano. E fu la rivelazione della mia vita. Non c'era altro rituale che respirare, camminare, fare il bagno nell'acqua ghiacciata della cascata, guardare la terra, i licheni, gli alberi, le foglie, gli oggetti usuali, toccare profondamente la vita, la realtà. Aderisci profondamente alla realtà col cuore del tuo essere. Non c'è altro da cercare, mi diceva. Questa via, all'inizio, manca stranamente di esotismo, di magia, di straordinario. Niente di spettacolare, niente di sconvolgente sul piano dell'energia esterna, soltanto sconvolgimenti interni. È tutta una questione di accordi. E i Kashmiri, grandi maestri della musica, amano paragonare la yogini e lo yogin a uno strumento a corde. Il sarangi, particolarmente delicato e lungo da cordare per il gran numero di corde simpatiche che lo compongono. Aveva adorato fremere ogni sera al suono della musica tibetana sonada nel monastero di Kalau Rinpoche. Ero stato trasportato dal mio maestro e da coloro che avevo avvicinato grazie a lui. Avevo vibrato alle pratiche dell'atmosfera tibetana calorosa, distesa, buffa e rigorosa. Con Devi non mi accadeva nulla. Attingevamo l'acqua, preparavamo i nostri pasti frugali, restavamo seduti in silenzio, mi trasmetteva l'insegnamento, camminavamo, approfittavamo del sole, ci divertivamo rilassati, ma nella presenza. Cercavo semplicemente di toccare la vita sotto lo sguardo scrutatore, generoso, intenso di quella donna, che mi sembrava un soffio profumato e leggero, una roccia inalterabile. Un'acqua capricciosa che segue i meandri della realtà secondo dopo secondo e a volte persino un'onda incandescente che mi sommergeva con violenza. Un non nulla la meravigliava. La sua estasi era continuamente alimentata dal minimo cambiamento delle cose. Non c'era in lei ombra di intenzionalità, semplicemente un godere immediato e senza incrinature di ogni secondo. In confronto a lei, malgrado la mia natura sensuale, avevo l'impressione di essere totalmente separato dal mondo. La sua gioia inalterabile, il suo sguardo brillante, il suo fremito continuo davano l'impressione che facesse l'amore con le particelle più minuscole dell'universo. Poco a poco mi è iniziata questo yoga non posturale della presenza che emerge dalla coscienza. Per i tantrici, la coscienza non deriva dall'attività, attenzione, ma al contrario, è l'attività che discende dalla coscienza. non la coscienza dall'attività, ma l'attività che scende dalla coscienza. In questo modo i nostri sensi non afferrano un oggetto esterno per tirarlo verso l'interno, verso colui che lo percepisce, ma al contrario, è la coscienza che emerge da noi, va a toccare il mondo e riporta così tutta la manifestazione alla sua fonte. Tutto ciò spiega l'insistenza sulla presenza alla realtà dei tantrici delle diverse scuole, dei praticanti e così via. Senza la presenza non vi è coscienza. Senza coscienza nessuna pratica porta i frutti. Ancora due pagine, completo questo argomento. 65. Tutti questi insegnamenti partono da una constatazione molto semplice. Non c'è che la coscienza. I diversi yoga non sono dei mezzi per toccare la coscienza. Un grande filosofo tantrico del X secolo e uno dei più grandi pensatori dell'India dice: tutto qui è prescritto, tutto qui è proibito. Gli yoga degli altri sistemi, basati sui vari membri, quali il controllo del respiro, sono fittizi. Una posizione piuttosto radicale. Allora, i maestri tantrici, liberandosi di diversi tipi di yoga, con prescrizioni e proibizioni, hanno voluto puntare verso la sola coscienza. E per loro l'attenzione alla realtà è la via più semplice e più diretta per far sì che la coscienza si manifesti in modo continuativo. Soltanto il ragionamento è mantenuto perché genera un cogitare sempre più intimo e acuto, dice ancora un grande maestro. Come si vede, questo ritorno costante alla fonte dell'essere, la coscienza, dispensa il tantrico da qualsiasi adesione a precetti morali o etici esterni. Il tantrico rifiuta tutti i divieti, tutte le ricerche esteriori progressive dove intervengano forme, rituali, credenze o dogmi. È così pura la metafisica che non ha incidenza sul piano della pratica. È anche uno degli insegnamenti fondamentali del Buddha, che non rispondeva mai a questo genere di domande. Non ci sono né trascendenza né purificazione. I maestri definiscono puro tutto ciò che è vissuto con coscienza e impuro tutto ciò che è vissuto nell'automatismo e nella non presenza. La coscienza sostituisce tutto e senza di essa non vi è spiritualità. Allora comprendiamo qui il messaggio profondo di Angela Volpini quando dice che non potrà mai perdonare i mediatori tra Dio e l'uomo che hanno separato l'uomo dalla sua coscienza. Privando l'uomo dalla sua coscienza, che vuol dire presenza alla realtà, ne hanno fatto un essere senza bussola, che è continuamente sperso e ha bisogno quindi continuamente di guida e di dipendenza. E infatti l'immagine del divino, parla sempre la Volpini, è qualcosa di mostruoso. È un'immagine del divino che non nasce da chi ha coscienza, ma da chi alla ricerca del potere crea un'immagine adeguata a questa sua ricerca del potere. Il Dio del Vecchio Testamento che punisce, che distrugge e aiuta a distruggere i villaggi, a uccidere tutte le persone, non è altro che una proiezione esterna di questa ricerca di potere. E quindi l'essere cosiddetto perfettissimo è l'esempio più estremo del potere e dominio. Questa immagine di Dio ha allontanato gli esseri umani dal vero, dal divino. E allora vi ricordo ancora che cos'è il divino. Un campo di concentramento, un credente vede un bambino di 10 anni che viene portato a una forca, che viene impiccato. In quel momento dentro il credente scoppia una terribile domanda, un urlo, dice: dov'è Dio? Ma una voce flebile al suo interno, la voce della sua anima dice: Dio è quel bambino di 10 anni, cioè l'ultimo, l'innocente, quello che non ha potere. Bene, questa è anche l'immagine che ha Angela Volpini quando dice: Dio ha rinunciato al potere e è soltanto amore. Gesù è morto perché era soltanto amore e non potere. La rinuncia al potere ci rende divini, innocenti, capaci di fare solo il bene. È quello che Mancuso dice a proposito dell'anima quando diventa santa. Non è solo l'anima che si collega al tutto, ma cerca soltanto il bene. Allora, se noi andiamo in profondità nelle diverse tradizioni, vedremo che c'è un filo d'oro che le collega tutte. Ma questo filo d'oro è molto sottile. Ed è un filo d'oro che le collega perché è un filo che percorre il pensiero umano di coloro che hanno saputo rinunciare al potere. Comprendere questo è comprendere l'essenza della spiritualità, che è implicita in ogni reale tradizione.